Garibaldi fu ferito di una gamba. Il Gazzettino del Risorgimento. Storie da una giovane Italia. Per Garibaldi, viva! Di Simone Spezia e Paolo Piacenza. 1862, Garibaldi torna in Sicilia al grido «O Roma o morte!». Da Sarnico a Palermo Garibaldi non si ferma. I fatti avvenuti a fine maggio al confine col Trentino hanno provocato i ben noti 123 arresti seguiti dal tentato assalto al carcere di Brescia e quindi dall'uccisione di 4 manifestanti e dal ferimento di altri 6. La borsa di Torino per 5 giorni ha infilato un calo dopo l'altro, ma il generale non si è lasciato intimorire. In una lettera pubblica ha chiamato boia l'ufficiale che ha ordinato il fuoco, ha parlato di sgherri mascherati da soldati. Poi, in un'altra destinata al presidente della Camera, ha riferito di accordi con il governo, ha negato l'intenzione di invadere il Trentino. Il re pare gli abbia rifiutato un colloquio, lui all'indomani del dibattito in Parlamento che ha approvato l'operato dell'esecutivo Rattazzi ha annunciato di voler tornare a Caprera. Ma a Caprera è stato pochissimo, il 27 giugno 1862 si è imbarcato sul Tortoli ed è giunto qui in Sicilia per partecipare a un raduno dei Mille. Ed è in questo agitato contesto che ha deciso, ormai è certo, di muovere per una nuova impresa che ha come obiettivo Roma. Non si sa cosa volesse fare il generale prima di partire. Si è parlato di una possibile spedizione in Grecia, paese scosso da una notevole instabilità, ma secondo molti suoi compagni già prima della partenza il generale pensava a lanciarsi verso il Campidoglio. Di sicuro ha voluto riabbracciare i compagni della marcia vittoriosa fino al Volturno e rilanciare l'azione e il ruolo del Partito Democratico che, come si sa, è minoranza in Parlamento. Probabilmente ha anche voluto saggiare con un test di popolarità il clima che avrebbe accolto una nuova impresa. Ed è così che si è convinto, di fronte all'entusiasmo che lo ha circondato da Palermo a Marsala, ha preso la sua decisione. Il 10 luglio, proprio a Marsala, pare un uomo dalla folla ha gridato «O Roma o morte!». Garibaldi ne ha fatto il suo motto. Il 15 luglio a Palermo, al Foro Italico, ha preso la parola durante la rivista della Guardia Nazionale e proprio dalla tribuna in cui c'erano il sindaco, il prefetto Pallavicino Trivulzio e altre autorità ha attaccato Napoleone III, definito il traditore del 2 dicembre, colui che versò il sangue dei fratelli di Parigi. Poi ha annunciato «A Roma vi giungeremo, ma con le armi». A questo punto, a Torino, il governo non potrà più restare a guardare. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24.